Si trova scritto nei documenti che Geremia profeta ordinò ai deportati di prendere del fuoco, come è stato significato, e che il medesimo profeta ai deportati consegnò la legge, raccomandando loro di non dimenticarsi dei comandi del Signore e di non lasciarsi traviare nelle idee, vedendo i simulacri d'oro e d'argento e il fasto di cui erano circondati, e che con altre simili espressioni li esortava a non ripudiare la legge nel loro cuore. Si diceva anche nello scritto che il profeta, ottenuto un responso, ordinò che lo seguissero con la tenda e l'arca. Quando giunse presso il monte dove Mosè era salito e aveva contemplato la realtà di Dio, Geremia salì e trovò un vano a forma di caverna e là introdusse la tenda, l'arca e l'altare degli incensi e sbarrò l'ingresso. Alcuni del suo seguito tornarono poi per segnare la strada, ma non trovarono più il luogo. Geremia, saputolo, li rimproverò dicendo: il luogo deve restare ignoto finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo e si sarà mostrato propizio. Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la nube come appariva sopra Mosè e come avvenne quando Salomone chiese che il luogo fosse solennemente santificato. Si narrava anche che questi, dotato di sapienza, offrì il sacrificio per la dedicazione e il compimento del Tempio. E allo stesso modo che Mosè aveva pregato il Signore ed era sceso il fuoco dal cielo a consumare le vittime immolate, così pregò anche Salomone e il fuoco sceso dal cielo consumò gli olocausti. Mosè aveva detto: «Poiché non è stata mangiata la vittima offerta per il peccato, essa è stata consumata». Allo stesso modo anche Salomone celebrò gli 8 giorni. Si descrivevano le stesse cose nei documenti nelle memorie di Neemia e con egli, fondata una biblioteca, curò la raccolta dei libri dei re, dei profeti e di Davide e le lettere dei re intorno ai doni. Anche Giuda ha raccolto tutti i libri andati dispersi per la guerra che abbiamo avuto e ora si trovano presso di noi. Se mai avete bisogno, mandate persone con l'incarico di portarveli. Vi abbiamo scritto mentre siamo per celebrare la purificazione. Farete ottima cosa se celebrate anche voi questi giorni. Poiché Dio ha salvato tutto il suo popolo e ha concesso a tutte l'eredità, nonché il regno, il sacerdozio e la santificazione, come ha promesso mediante la legge, noi poniamo in Dio speranza che Egli ci usi presto a misericordia e voglia presto radunarci da ogni regione posto sotto il cielo, nel luogo santo. Egli, infatti, ci ha liberati da grandi mali e ha purificato il luogo santo. I fatti riguardanti Giuda Maccabeo e i suoi fratelli, la purificazione del grande tempio e la dedicazione dell'altare, come anche le guerre contro Antioco Epifane e il figlio di lui Eupatore, nonché le manifestazioni venute dal cielo sopra coloro che si erano battuti con valore per il giudaismo, riuscendo in pochi a impadronirsi di tutta la regione, e a scacciare una moltitudine di barbari, a riconquistare il tempio famoso in tutto il mondo, a liberare la città e a ristabilire le leggi che stavano per essere soppresse, quando il Signore si rese loro propizio con ogni benevolenza. Questi fatti, narrati da Giasone di Cirene nel corso di 5 libri, ci studieremo per riassumerli in una sola composizione. Vedendo infatti la massa di numeri e l'effettiva difficoltà per chi desidera di inoltrarsi nelle relazioni storiche a causa della vastità della materia, ci siamo preoccupati di offrire diletto a coloro che amano leggere, facilità a quanti intendono ritenere nella memoria, utilità a tutti gli eventuali lettori. Per noi certo che ci siamo sobbarcati la fatica di sunteggiare, l'impresa non si presenta facile, ci vorranno sudore e veglie. Così come non è facile preparare un banchetto e accontentare le esigenze altrui, tuttavia, per far cosa gradita a molti, ci sarà dolce sopportare la fatica, lasciando all'autore la completa esposizione dei particolari, curandoci invece di procedere secondo gli schemi di un riassunto. Come infatti in una casa nuova l'architetto tocca pensare a tutta la costruzione, mentre chi è incaricato di dipingere a fuoco e a fresco deve badare solo alla decorazione, così penso è per noi. L'entrare in argomento e il passare in rassegna i fatti e l'insinuarsene particolari spetta all'ideatore dell'opera storica. Curare il sunto dell'esposizione e tralasciare i complementi della relazione storica è riservato a chi fa opera di compendio. Di qui, dunque, cominceremo la narrazione, senza nulla aggiungere a ciò che abbiamo detto nella prefazione. Sarebbe certo ingenuo abbondare nei preamboli e abbreviare poi la narrazione storica.